La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Bentornati alla bufala in tavola. Riprendiamo le buone abitudini o manteniamole. Accomodatevi, su, mangiamo insieme, lontani ma vicini, come abbiamo fatto durante l'isolamento, con amici, cugini, parenti che grazie alla tecnologia abbiamo fatto virtualmente sedere alla nostra tavola. In questo modo abbiamo fatto un po' di festa, ci siamo sentiti famiglia, ci siamo sentiti meno soli e più felici. È così, proprio, non è solo un modo di dire. La ricerca ci racconta che sentirsi in compagnia stimola la produzione di endorfina nel cervello e naturalmente l'umore ci guadagna. Per questo, per non sapere come si dice né leggere né scrivere, io mi sono portata avanti e ho invitato il dottor Stefano Erzegovesi, specialista in scienza dell'alimentazione e psichiatra, nonché direttore del Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare al San Raffaele, che in queste settimane è stato al nostro fianco in cucina per insegnarci a preparare le famose ricette del medicuoco quasi cuoco, ricette che coniugano salute e gusto. Dottor Erzegovesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, mi mancava ma un po' la sigletta della bufala in tavola, quindi è stato un piacere risentirla. Bello, perché poi l'idea di mangiare insieme mi rallegra, e lei che è un attento conoscitore del rapporto tra cibo e mente probabilmente sa spiegarmi la ragione. Assolutamente sì, noi abbiamo una serie di ormoni e di neurotrasmettitori, qui citava giustamente l'endorfina, l'altro importantissimo è l'ossitocina, che sono delle sostanze direttamente correlate alle nostre capacità empatiche. Sottolineiamo che di ossitocina di solito le donne ne hanno un po' di più degli uomini, ma questo è, come dire, biologicamente legato al fatto che le donne sicuramente hanno la necessità di essere più empatiche degli uomini per una serie di funzioni legate proprio alla crescita dei cuccioli, mangiando insieme. È vero che è chiamato anche l'ormone dell'accudimento. Dell'accudimento, dell'empatia e in qualche modo del contatto, sì, assolutamente. Mi piace. E la condivisione del pasto immediatamente dopo la condivisione delle parole, quindi giustamente in questo periodo l'ossitocina legata a un contatto fisico è stata nettamente ridotta, ma grazie al cielo le nostre capacità evolutive ci hanno messo nella condizione di poter comunque condividere un'esperienza empatica attraverso dei canali più sottili, ma non per questo dei canali assenti. E quindi mangiare insieme in particolare stimola questo tipo di funzione, cucinare insieme ancora di più, però già anche parlare, vedere le proprie facce, tutti questi altri canali sono sicuramente molto molto efficaci da questo punto di vista. Dottor Erzegovesi, allora mangiamo insieme, anzi facciamo di più, aggiungiamo un posto a tavola, dai! Per la professoressa Laura Di Renzo, che è associato di nutrizione clinica e nutrigenomica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Voilà! Ecco il nostro nuovo ospite, una new entry alla tavola della bufala in tavola, professoressa Di Renzo, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno Nicoletta, buona domenica e allora ci prepariamo per il nuovo pranzo, grazie per avermi aggiunto a tavola. Magnifico, senta professoressa Di Renzo, noi alla bufala in tavola siamo tra amici e quindi possiamo anche fare un po' di gossip, e lei ha tanto da raccontarci perché insieme al suo collega professor Antonino Di Lorenzo avete condotto una ricerca che è una fotografia degli usi e dei costumi degli italiani al tempo del lockdown da Covid-19. Sonno, cibo, sesso, emozioni, non vi è sfuggito nulla. Allora, professoressa Di Renzo, ci racconti per bene, perché in linea con noi c'è anche il dottor Erzegovesi, non lo vedo, ma so che è molto curioso di sapere, come si dice, tutto orecchi. Professoressa. Benissimo, grazie. Intanto volevo ringraziare tutti gli italiani che hanno partecipato e hanno speso qualche minuto per rispondere alle tantissime domande che gli abbiamo presentato in questi giorni di chiusura e di lockdown. Quindi Le abitudini alimentari e lo stile di vita ci hanno soprattutto interessato per quello che riguarda le abitudini alimentari, che poi magari possiamo vedere più in dettaglio. C'è da dire che in questo periodo siamo a metà, 48% degli italiani ci ha dichiarato di essere aumentata di peso, poi bisogna anche capire il motivo, sicuramente si è mangiato di più, però si è mangiato anche meglio. E nello stesso tempo la cosa molto interessante è quella che ha riguardato il sonno, le abitudini proprio motorie e anche il fumo, perché per quanto riguarda il sonno noi in realtà abbiamo avuto la capacità di dormire di più. E questo dal mio punto di vista, dal punto di vista nutrizionale, è interessante, perché se dormiamo troppo poco, per quello che è tutto un discorso legato alla cronobiologia, ingrassiamo. E quindi il fatto di aver recuperato sonno più di 7 ore, qualcuno, circa il 10% della popolazione, ha dormito anche più di 9 ore, in qualche modo ci ha aiutato anche nel riequilibrare lo stato nutrizionale. E poi c'è il discorso legato all'attività fisica, e allora lì si sono un po' scoperti i pigroni, perché abbiamo visto che dal punto di vista sempre statistico il 38% della popolazione che non faceva alcuna attività motoria prima è rimasto seduto. E quindi non neanche dire che c'era più tempo, no? Perché magari no. Molti di noi hanno avuto l'opportunità dello smart working, quindi di gestire il lavoro. Ebbene, i pigri sono rimasti pigri. Invece è interessante come tutti quelli che già si muovevano prima hanno cambiato, si sono inventati, no? un modo di muoversi, e magari che sono aumentati gli esercizi a corpo libero, però quelli che si allenavano almeno 3 volte a settimana hanno spostato il numero, quindi hanno aumentato il numero di allenamento anche oltre le 5. 5 volte a settimana, e questo va un po' nella direzione di quello che noi diciamo sempre, cioè dobbiamo stare attenti con quello che mangiamo e mantenerci in buona salute, ma anche l'attività motoria di qualunque genere essa sia fa parte del nostro benessere. E certo, infatti professoressa, noi abbiamo messo le pagine di Facebook del programma di Obiettivo Salute degli esercizi, ci ha guidato anche Viviana Ghizzardi, poi abbiamo fatto delle coreografie con Beatrice Carbone, quindi abbiamo anche ballato proprio per aiutare le nostre amiche e i nostri amici a muoversi di più. A proposito di movimento, dobbiamo muoverci perché devo dare la linea un attimo alle informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme, perché professoressa vogliamo anche sapere che cosa abbiamo mangiato, quali sono i piatti che sono stati più gettonati, più preparati, che ci hanno dato più soddisfazione. A tra poco. Dalla Brexit alla Libia, dal terrorismo internazionale alle proteste di Hong Kong, il mondo è sempre più interconnesso. Ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarda sempre e comunque. Per questo ogni giorno racconteremo storie, proporremo analisi, porremo domande e cercheremo insieme a voi le risposte con esperti internazionali, voci dal campo e reporter dalla prima linea. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. La bufala in tavola. Fatto una pizza, come un marrone. che tardi, accomodatevi alla tavola della bufala in tavola oggi insieme a noi la professoressa Laura Di Renzo, che ci sta raccontando abitudini, usi e costumi degli italiani durante il lockdown da Covid-19. Hanno fatto una ricerca molto interessante, nulla è sfuggito, tra poco scopriremo anche che cosa gli italiani hanno portato a tavola con maggiore soddisfazione. E naturalmente con noi non poteva mancare il nostro medicuoco, quasi cuoco, che durante tutto il tempo del lockdown ogni giorno a Obiettivo Salute insieme a voi ci ha suggerito le sue ricettine. Professoressa, che cosa hanno mangiato gli italiani? Sicuramente la pizza, la pane, pasta, ci siamo ritrovati in cucina, ai fornelli, abbiamo messo le mani in pasta, questo ci ha dato grande soddisfazione. Questa è una cosa che mi piace osservare, anche perché noi spesso siamo stati presi dalle mode, no? E quindi abbiamo fatto un'attenzione particolare a tutto quello che era gluten free, anche quando non c'era bisogno di togliere il glutine dai nostri piatti. Ebbene, in questo periodo sono passate queste mode perché, appunto, come ha detto lei, abbiamo messo le mani in pasta. Il 43% degli italiani è diventato pizzaiolo. Io ho visto foto di pizze tutti sabato, come era già d'abitudine fuori. Poi sono aumentati, abbiamo fatto i dolci, abbiamo fatto, come dice lei, tutto quello che è il prodotto da forno, che ha utilizzato farina, lievito. Però c'è da dire che l'attenzione è anche ad un cibo più mediterraneo, e questa è una cosa buona, perché abbiamo avuto un aumento dei consumi di verdura, di prodotti di stagione, e soprattutto questo è legato all'aderenza alla dieta mediterranea. Quindi c'era la giusta quota di carne ripartita bene durante la settimana, quindi abbiamo preferito la carne bianca rispetto alla rossa. Purtroppo c'è stato un limite, ma era un limite del mercato: il pesce fresco, che è alla base della nostra dieta mediterranea, non si è potuto consumare, almeno credo nella prima parte del nostro lockdown, perché poi ci siamo attrezzati anche una questione di prezzo, e quindi sul pesce ci siamo rivolti al tonno, al salmone, al pesce che era congelato, ma comunque quello va benissimo lo stesso. Voglio sentire il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Arzegovesi, se è soddisfatto di questi dati. Ma devo dire, temevo, perché avevo sentito troppe pizze, troppo pane, troppi prodotti da forno. Sono felice di sono felice di sentire che anche la verdura è aumentata come consumi, perché io ho passato questi mesi dicendo: bello mettere le mani in un impasto di acqua e farina, ma mettiamo le mani anche su un carciofo, piuttosto che su un broccolo, piuttosto che adesso su un asparago. Quindi, insomma, usiamo questa situazione anche proprio per familiarizzare, per estrarre il meglio, ma anche di piacere, non solo di salute, da tutti i vegetali, delle verdure, insomma. Professoressa Di Renzo, invece ci sono state delle buone abitudini, oppure degli alimenti che magari abbiamo in qualche modo limitato, abbiamo frequentato un po' di meno? Penso proprio di sì. Tra le buone abitudini c'era quella del condimento con l'olio extravergine d'oliva, il 100%, il soffritto. Tutti fanno soffritto, e ormai questa parola, il nostro soffritto, è entrato nella terminologia mondiale, perché è alla base di qualunque ricetta ricco di antiossidanti. Però, per fortuna, quelli che abbiamo spesso definiamo come cibo spazzatura, o i prodotti, gli alimenti ultraprocessati, che io dico sempre: attenti, non mangiamo cose troppo ultraprocessate. Mi veniva: ma che vuol dire ultraprocessato? Bene, sono cose trasformate dall'industria alimentare, dove ci sono componenti che vengono aggiunti per arricchire quel piatto stesso, quella ricetta, quel prodotto, ma che poi delle volte non sono così salutari. Allora, quello che ho osservato è appunto una riduzione delle salse da condimento, delle bevande dolci, degli snack. Siamo stati molto bravi. siamo stati bravi. E c'è da dire, c'era questa cosa che osservavo, molto bravi sono stati i giovani. I giovani tra i 18 e i 30 anni sono i più aderenti alla dieta mediterranea. Noi abbiamo fatto un test, cioè all'interno del test c'era un sottotest con 14 domande che ci hanno permesso di rilevare l'aderenza alla dieta mediterranea. I più aderenti sono stati appunto i nostri giovani. E questo fa molto piacere, perché poi hanno fatto magari un aperitivo con le crudite. Diamo ai nostri giovani la medaglia, il bollino blu della bufala in tavola. Magari a loro non importerà, ma noi glielo diamo ugualmente. Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata, venga a trovarci presto. Sicuramente. Per un brindisi e per un ci contiamo. Grazie. Ci contiamo. Grazie mille. E mangio pane, pane e sale. Dottoressa Zecovesi, per chi ha messo molto le mani in pasta, è diventato panettiere, pizzaiolo, focacciaro e questa abitudine insomma fa fatica a lasciarla, quali indicazioni e suggerimenti vuole dare? Ecco, questo è importantissimo, è la questione delle preparazioni da forno fatte in casa e delle dosi. Il vero problema anche per chi fa un pane di buonissima qualità, quindi farine integrali, addirittura alcuni con lievito madre, è che il prodotto fatto in casa viene quasi sempre consumato in dosi più alte. Quindi il consiglio spassionato è fatene meno. Già, magari fatene anche, ma siate già attrezzati di un surgelatore, in modo che già sapete, dopo che avete preparato il vostro pane o il vostro lievitato, di farlo in porzioni, in cubetti, comunque in porzioni di singole e tutto in sacchettini nel freezer, perché la facilità di avere su un tavolo un prodotto da forno di buona qualità, anche salutare, e il poterne mangiare, gli studi dicono tranquillamente il 30% in più, quasi senza che la persona si accorga di averlo mangiato. Quindi invece è molto importante in questo senso sapere già prima che la porzione deve essere definita proprio alla fonte. Questo già è un modo per garantirsi il massimo della salute, ma evitando il massimo delle quantità. Dottor Erzegovesi, noi siamo in confidenza, allora venga con me in dispensa, mettiamo un po' a posto. Lei ci deve dire che cosa dobbiamo aggiungere, cosa possiamo consumare ogni giorno, che cosa tenere le occasioni speciali. L'obiettivo, come dice lei, è proprio avere a portata di mano tutto quello che occorre per preparare dei piatti buoni, ma che abbiano proprio sempre tutte le caratteristiche per rispondere alle nostre necessità psicofisiche. Ci sta? Sbirciamo volentieri, la nostra dispensa. Volentieri. Anzi, dai, un viaggio nella dispensa non l'avevamo mai fatto, ma mi sembra una bellissima idea. Vede? Quindi prima cosa. Allora, una dispensa. Prima di tutto dobbiamo pensare alla nostra dispensa rispetto agli occhi di chi la guarda. E quindi dobbiamo diventare un minimo esperti di marketing e sapere che tutto ciò, esattamente come gli esperti di marketing dei supermercati fanno, tutto ciò che è ad altezza occhi e soprattutto tutto ciò che è accessibile alla vista, quindi diversa ad esempio una scatola trasparente da una scatola opaca, risulta automaticamente più nella condizione di essere consumata in maggiori quantità. Quindi questo cosa vuol dire? Prima di tutto, se abbiamo dei figli piccoli, dobbiamo fare in modo che i loro occhi, che sono un po' più bassi dei nostri, abbiano vicino degli alimenti diversi, ma soprattutto abbiamo bisogno di immaginare una dispensa dove tutto ciò che è più a rischio di consumo incontrollato, e quindi pensiamo le merendine, le caramelle, i prodotti da forno dolci o comunque tutte quelle situazioni più difficili da gestire nelle quantità, mettiamoli nella nostra dispensa in una posizione non direttamente collegata allo sguardo e possibilmente in confezioni opache. Quindi mettiamole in quelle, le vecchie scatole dei biscotti di latta, nel momento in cui sono anonime nell'aspetto esterno, quindi un classico tinta unita va benissimo. Un classico tinta unita che va bene per tutte le stagioni. Dottor Erzegovesi, allora io parto, lei mi dice cosa aggiungere, cosa sostituire, cosa togliere. Proprio un sono pronto. Ping pong. Pronto? Ping pong. Pasta e riso. Pasta e riso, assolutamente in prima fila, perché? Perché sono alimenti non immediatamente consumabili e quindi non a rischio di eccessi, e così ci ricordiamo di mangiarli tutti i giorni. Cosa devo aggiungere o variare? La versione integrale? Ecco, riso integrale, pasta integrale ma cotta bene al dente, teniamocene anche un po' bianca, perché ci sono alcuni sughi più delicati che si giovano di più di una pasta bianca. Formati vari, consideriamo che il formato della pasta può influire sull'indice glicemico, quindi un po' di pasta lunga tipo gli spaghetti ha sempre un indice glicemico un pochino migliore delle paste corte, quindi un po' dell'una e un po' dell'altra. E un po' mettiamo dell'altra, anche, ci fermiamo. Già che siamo lì, qualche chicco. Qualche chicco. Ci fermiamo un attimo, riprendiamo subito dopo insieme con il dottor Erzegovesi, reparto scatolame, caffè, tè e me, mi verrebbe da dire, e poi condimenti e poi andiamo in America, perché tutto il mondo è paese. I più grandi impegnati nella didattica a distanza, i più piccoli a casa, sulle ginocchia di mamma e papà impegnati nello smart working o in giro per una breve passeggiata, ma lontani dalle aree gioco. Eppure il tempo scuola è importante anche per loro, i bambini di nidi e scuole dell'infanzia, ed è tempo che le attività educative ripartano anche per loro. Come? Scuola nel bosco, piccoli gruppi. Sono Maria Piera Ceci e ogni giovedì vi racconto un'esperienza di scuola possibile anche per i più piccoli nei podcast di Verso il Futuro e Oltre, sempre su radio24.it. La bufala in tavola. Siamo tornati, andiamo in dispensa con il dottor Stefano Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco, lo infiliamo ovunque, in cucina, in dispensa, a tavola. Dottor Erzegovesi, eccoci. Sono qua. Sono pronto anche oggi, pronti. Mamma mia, lei è un santo. Allora, andiamo in dispensa, reparto scatolame. Ecco, reparto scatolame, grande evidenza ai legumi in scatola, che spesso si portano dietro una fama sconveniente, in realtà sono un alimento di basso costo, di rapidissimo e facilissimo utilizzo, è un modo per poter mangiare anche quando non abbiamo tempo tutte le proteine vegetali ricche di fibre, amiche anche del cervello, di cui abbiamo bisogno, quindi grande quantità di legumi, teniamoci per emergenza una carne o un pesce conservato, sì, quindi una scatoletta di corna e una scatoletta di tonno senza problemi, pomodori conservati in grande quantità. Cotti e conservati spesso sono anche più ricchi di licopene di quando sono crudi e freschi, quindi abbondanza. Caffè, tè, me. Ecco, caffè. Il me non c'entra. Me anche. Caffè. Caffè, ascoltiamo il nostro cuore. Se siamo dei veloci metabolizzatori di caffeina e quindi rapidamente la consumiamo, possiamo bere grandi quantità di caffè e sfruttarne l'effetto antiossidante ottimo dei polifenoli del caffè. Se siamo dei lenti metabolizzatori, tendiamo ad avere un livello di caffeina più alto nel sangue, quindi facilmente abbiamo tremorini, irritabilità e tachicardia. In questo secondo caso beviamone meno, cioè non più di un paio al giorno e non oltre le 3-4 del pomeriggio. Il tè, al contrario del caffè, invece è come se contenesse al suo interno sia la caffeina sia il diretto antidoto della caffeina, che è la teanina, che invece è un aminoacido più calmante, tranquillizzante. Il tè è l'ideale, secondo me, per sentirci lucidi, svegli, ma un po' più tranquilli di quello che è il caffè. Non è un caso che tutte le tecniche di meditazione di tutto il mondo considerano il tè come la bevanda principale, quindi assolutamente teniamoli entrambi in dispensa. Che la porto dalla dispensa in America. Intanto salutiamo Livia Gamondi, che è in linea con noi. Ciao Livia. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, buongiorno dottore. Eccomi. Giornalista, esperta di salute, che è sempre alla ricerca delle novità, delle nuove tendenze nel mondo della salute, del benessere e dell'alimentazione. Livia, noi siamo andati forte con pizze, pane, focacce, ciambelle, ciambelloni, ma anche in America ci hanno dato dentro, come a dire, che tutto il mondo è paese. Che cosa hai scoperto? Allora, buongiorno a tutti. Allora, tante belle cose. Alcune ci sono, abbiamo anche delle new entry recentissime, una new entry in particolare, ritornando a quello che diceva il dottore sul caffè. Arriviamo, allora, quello che ha veramente spopolato è stato il banana bread. Allora, il banana bread è un tipico gusto della tradizione americana in tutti i paesi anglosassoni, perché è andato fortissimo in tutti i paesi anglosassoni, come dicevo, Inghilterra, America e Australia. Veramente ha spopolato ed è un dolce molto semplice da fare, che ha bisogno di un ingrediente tipicamente americano, che è il burro spray. Noi qua non siamo tanto abituati, però in America si usa il burro spray, che è una... che è una specie di bomboletta, quella del deodorante, che però si usa per ungere le teglie e via, e così facilitiamo. Viene fatto con, è interessante perché questo banana bread viene fatto con le banane molto mature, per cui non buttiamo via nulla. Quando sono meno belle da mangiare, meno invitanti, sono perfette per fare il banana bread, per cui si usa, la ricetta è abbastanza semplice e si mischiano le banane molto mature, lo zucchero, la farina, e poi si utilizza quella che è la baking soda, la baking powder, che è una specie di polvere lievitante che è molto più veloce e si usa è un po' simile al bicarbonato, vero? È una simile, ma non solo, non è solo bicarbonato, però è una cosa molto veloce, infatti viene utilizzata anche per cucinare quello che è chiamato il quick bread, cioè il pane veloce. Per cui tutto, se non abbiamo tempo, facciamo anche questo. Ecco, veloce veloce. Dottor Arzegovesi, veloce veloce, un commento su questo burro spray, pane di banana. Il burro spray, chiamiamolo più esattamente staccante per teglie, nel senso che è un prodotto utilissimo in pasticceria, però attenzione, è tutto tranne che nutrizionalmente buono. Si può usare giusto quel milligrammo per non far attaccare il pane sulla teglia. Detto questo, il banana bread è sicuramente un alimento molto americano e, come tutti gli alimenti molto americani, molto ricchi e molto concentrati di gusto, cosa che sappiamo è da un lato molto gratificante, ma è contemporaneamente un gusto che va a saturare i nostri recettori del gusto, soprattutto per il dolce e per il cremoso, anche per il salato, perché il banana bread comporta anche un pizzico di sale. Quindi vuol dire lo proverò, io lo provo, vale la pena, vale la pena. Senti, le banane sono comunque un frutto ricchissimo di sali minerali, con un contenuto di zuccheri neanche altissimo, con una buona quantità di fibra, però diciamo tra uova, burro, zucchero e tutto il resto è un pane bello, bello ricco, non è sicuramente un pane da fettina light. Allora Livia, però ci sono anche delle new entry, rapidamente ce le vuoi, allora, così ci vuoi stuzzicare? Poi c'è, come se anche loro, anche in paesi anglosassoni si sono dilettati nell'impastare la pizza, che va bene, nel farla proprio dall'originale, partire dalla pasta. Sì, soprassediamo su quello. Esatto, poi facciamo subito, la grande tradizione è sempre il French toast, quello che è quello che dalla lacrima di Kramer contro Kramer. Esatto. E però la grande new entry è il dalgona coffee, di origine coreana. Allora, la grande new entry è questo dalgona coffee, che è noto anche come cappuccio al contrario. E servono tre ingredienti fondamentalmente, che sono il caffè solubile, l'acqua e il latte. L'acqua, latte e zucchero, niente, così velocissimo, e si prepara mischiando bene con una frusta il caffè solubile con lo zucchero, che diventa quasi una spuma, e poi si mette questo sopra il latte caldo, freddo, secondo i gusti, e si può decorare con dei pezzettini di cioccolato, col caffè o come uno gradisce. Questo è famoso perché è stato lanciato durante una trasmissione di cucina in Sud Corea. Hai capito? E noi lo lanciamo così. È virale, sì. E noi lo lanciamo oggi. Allora, se lo provate, Se lo provate, ricordatevi che l'abbiamo ascoltato da Livia Gamondi alla Bufala in Tavola. Dottor Arzegovesi, la guardi che la interrogherò su questo cappuccino al contrario. Si prepari anche lei per una ricetta. Per una ricetta del medicuoco quasi cuoco, troveremo il modo per ridurre lo zucchero. Grazie a Livia Gamondi per essere stato con noi. Buona Grazie giornata. A voi. Buona festa della mamma, direi, e in linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere Erika Liverani, food blogger, vincitrice di Masterchef Italia 5, soprattutto lei è la mamma di Emma. Buongiorno, ciao Erika. Ciao Nicoletta, buongiorno. Ma che bello, ma io sono pazza di te, anche perché devo dire che il tuo account Instagram, Erika Amore Fantasia, è una perfetta sintesi dello stile tipico della cultura emiliano-romagnola, che io adoro, e che si ritrova anche nelle tue ricette, perché è proprio una cultura che ti abbraccia, che sa di mamma, vero? È speciale. Sì, mi appartiene proprio, cioè ti dico, sono cresciuta così, per me la tradizione è famiglia, la tradizione è la mamma e la nonna, è emulare la mamma e la nonna, e quindi alla fine è un cerchio che si chiude, no? Per me la tradizione è nella cucina, soprattutto è emozione, e quindi tutto quello che mi emoziona io lo porto avanti con tanto orgoglio. Ma si sente e si vede. Senti, a proposito di ricette di cucina, io voglio parlare di Emma, che è una parte fondamentale, perché Emma va in vigna, sceglie le zucche, annusa i funghi, fa le orecchiette, ma è straordinaria. Guarda, sono felice di essere riuscita a trasmettere questa mia passione, anche se è una cosa che non pretenderei mai. Nel senso, molti mi chiedono, ma come la prenderesti se tua figlia poi non volesse cucinare? E io rispondo sempre, vorrebbe dire che non ha scelto la strada più semplice. Cioè, a me piace l'idea di farle capire come si sta quando si segue una passione. Quindi se lei vede che io sono felice e sono di buon umore quando cucino, e lei scopre di provare questo nella danza o nella scrittura o nella fotografia, ben venga. Anzi, lei vuol fare la parrucchiera, quindi. Senti Erika, però anche la tua passione per la cucina è iniziata da bambina, e quindi insomma buon sangue non mente, dai. Sì, guarda, pensandoci, perché comunque è una domanda che mi è stata fatta tantissime volte in questi anni, pensandoci mi rendo conto che io bene o male le mani in pasta le ho avute sempre. Mai avrei pensato che potesse diventare un mestiere, infatti io ho studiato tutt'altro. Però mi sono resa conto che è una parte di me che c'è da sempre. Vedi, Mm-mm. Poi il cuore porta lì. Senti, a proposito di cuore, con te oggi vogliamo fare gli auguri a tutte le mamme e le nonne all'ascolto, ci piacerebbe sbaciucchiarcele, abbracciarcele, ma facciamo arrivare tutto questo nostro amore dalle nostre parole, magari anche da una tua ricettina. Facci sognare, che cosa, come ti festeggia Emma oggi? Ma guarda, oggi è qua in negozio da me e ci sta dando da fare, una brava cuochetta. E allora ti dico, oggi potremmo farci, quando sarà ora del nostro pranzo, un bel piatto di gnocchi al pomodoro, che a noi piace tantissimo. Sì, piatti semplici, a noi piacerebbe fare piatti semplici, anche perché poi i bambini i piatti complessi, anche certi grandi, non li capiscono, e comunque si annoiano presto, no? Quindi se vogliamo, personalmente, se voglio mantenere la sua attenzione e insegnarle che un lavoro va concluso, devo comunque stimolarla a fare cose pratiche che si finiscano in poco tempo, e quindi direi che gli gnocchi al pomodoro possono essere la cosa migliore. Il segreto per farli speciali? Il segreto per farli speciali è usare è usare patate o vecchie o patate rosse, che sono patate che hanno poca acqua, in modo tale da poter aggiungere meno farina possibile e farli scioglievoli. E l'altro trucchetto è: queste patate vanno cucinate con la buccia in acqua satura di sale, quindi abbondantissimo sale, perché per osmosi il sale ciuccia via, se vogliamo essere un po' grezzi, toglie l'acqua dall'interno della patata, quindi la patata tipo si rattrappisce, perde acqua, e così dobbiamo mettere molta meno farina per ottenere un impasto lavorabile. E quindi fantastico, poi un attimo li butti e, come si dice, quando vengono su li scoli, li condisci tutti a tavola. Bravissima! Esatto. Tutti a tavola a festeggiare le mamme che stanno ascoltando La Bufala in Tavola, e anche quelle che non la stanno ascoltando, fate gli auguri da parte nostra. Erika, ti ringrazio per essere stata con noi, buona festa della mamma anche a te. Grazie Erika, un abbraccio grande. Noi ci fermiamo, riprendiamo subito dopo insieme, perché c'è un ospite specialissimo che abbiamo invitato per inaugurare la ripresa dei nostri incontri domenicali. Il dottor, ve lo dico dopo. La bufala in tavola. Vogliamo fare festa perché vogliamo inaugurare la ripresa dei nostri incontri domenicali, e allora ho invitato un grandissimo ospite, il dottor Franco Berrino, che è in linea con noi, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto dei Tumori di Milano. Dottor Berrino, buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, dottor Berrino, si accomodi alla tavola della Bufala in Tavola. Intanto, che cosa posso offrirle così per iniziare? Ma senti, io ho appena mangiato un piatto di orecchiette cucinate con porro e cavolo cappuccio e carote, con un po' di aromi, di gusti un po' orientaleggianti, e con il finocchietto, ed è stato un pranzo delizioso, quindi puoi offrirmi qualcosa per completare il mio pranzo con un dessert mediterraneo. Sapete cosa mangiavano per dessert una volta i nostri contadini del sud? Mangiavano un fico secco con dentro una noce o una mandorla. Il fico è molto dolce, ma le noci, le mandorle, le nocciole hanno la proprietà di, con i loro grassi buoni, di rallentare la velocità di assorbimento del glucosio. E ci sono oggi ancora persone che non mangiano noci, nocciole, mandorle perché sono molto caloriche, hanno paura di ingrassare. E invece, anche se sono molto caloriche, aiutano a non ingrassare, anzi a dimagrire. Dottor Berrino, quante noci, mandorle, nocciole, una manciatina in una giornata distribuita, quante possiamo regalarcene? Ma guarda, sicuramente 50 grammi al giorno vanno bene. 50 grammi significa 50 mandorle, distribuite un po' a colazione, certo, un po' a pranzo, un po' a cena, un po' a merenda, o una quantità simile delle altre varietà di cibi oleaginosi. Però perché anche abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ma noci, certo, nocciole, mandorle, possiamo variare. E guardate Berrino, anche dove sono prodotte, perché se vengono dall'America sono buone, non è che non siano buone, ma ce le abbiamo noi, mangiamo le nostre. Ecco, mi sembra un'ottima idea. Dottor Berrino, quando lei viene a trovarci, noi siamo sempre contenti, ma oggi ancora di più perché vogliamo che ci racconti tutto del suo nuovo libro, Il cibo della saggezza, che è scritto a quattro mani con un monaco, un maestro taoista, Marco Montagnani. Dottor Berrino, come è nata questa idea? Dove è nata? Ma guarda, è nata giù nel Casentino, perché casualmente ci siamo incontrati lì, perché lui ha comprato una bellissima tenuta nella foresta del Casentino, dove ha costruito un tempio taoista, dove ha costruito anche un agriturismo molto molto bello, e io mi sono trovato nel Casentino ospite dei monaci camaldolesi nella grande villa agricola dei monaci, questa sorta di monastero agricolo, la mausolea, e quindi eravamo di fatto vicini di casa. lui mi cerca pensando, non sapendo che io ero lì, perché voleva sapere qualcosa sul cibo. Io da tanti anni leggo il Tao e cerco di capirci qualche cosa, e allora mi interessava molto avere un maestro che mi aiutasse a decifrare il Tao, che è un libretto molto bello ma anche un pochettino ermetico. E così ci siamo incontrati, e allora lui mi ha invitato nella sua tenuta, mi ha invitato a fare una lunga passeggiata sulle meravigliose montagne. Sono le montagne che sono proprio di fianco sotto il Monte della Verna di San Francesco, e durante questa passeggiata abbiamo parlato di tantissime cose. E abbiamo parlato della vita, abbiamo parlato della nascita, della morte, abbiamo parlato del cibo, del respiro, abbiamo parlato dell'amore, della paura, della felicità, della semplicità, abbiamo parlato del caso, del destino, abbiamo parlato naturalmente del cibo, della longevità, della meditazione, della vocazione, del mestiere del medico e della gratitudine. E poi abbiamo pensato di scriverle queste cose proprio come un dialogo che ci accompagna nella nostra... Tutto il libro è una sorta di metafora della vita, il viaggio è una metafora della vita, e allora parliamo del viaggio, parliamo dell'importanza del viaggio, non del viaggio del turista, del viaggio che ti cambia la vita, del viaggio che ti dà qualcosa, del viaggio che ti accompagna nella ricerca del senso della vita. Ecco, un po' questi sono i temi di cui parla questo libro. Mi piace, chiudo gli occhi, dottor Berrino, chiudo gli occhi e vi immagino che camminate a fianco e vi raccontate. Da questa amicizia è nato questo libro in cui la scienza e la sapienza si mescolano, dialogano, si compenetrano, proprio come lo yin e lo yang nel simbolo del Tao. Allora, dottor Berrino, quali sono i messaggi, le indicazioni che possiamo trovare e trasferire nella nostra quotidianità? Nel libro si parla molto della devozione verso la terra, del rispetto della terra, perché la terra è viva, e parliamo allora sai, la terra è viva, nel senso che se noi non l'abbiamo avvelenata con i veleni dell'agricoltura chimica, in un centimetro cubo di terra ci sono milioni di microbi e altri animaletti che mantengono viva questa terra. E abbiamo parlato quindi anche della nostra terra, del nostro terreno, che è il nostro intestino, dove anche vivono miliardi e miliardi di microbi che lavorano per noi. E abbiamo parlato del rispetto che dobbiamo dare anche al nostro intestino, perché se il nostro intestino è sano, anche il nostro sistema immunitario è sano. E questo è molto importante per difenderci anche dalle pandemie. E io credo che sia importante che la gente se ne renda conto per prepararsi alla prossima pandemia, e prepararsi con un sistema immunitario, con una forza vitale che può trovare naturalmente nel cibo, nell'attività fisica, ma anche nella meditazione. Parliamo molto della meditazione, di liberarsi dal controllo mentale. La meditazione è la morte della mente, la morte dell'ego, e quindi la morte delle paure, delle incertezze, dell'invidia, dell'arroganza, del giudizio, della solitudine. E diamo qualche... Ma non è un libro che dà le istruzioni, è un libro che riflette su queste cose, che ci ricorda l'importanza. Per esempio, parliamo dell'amore, e Marco dice delle cose meravigliose sull'amore. Dice: l'amore appare solo quando la mente muore. Noi abbiamo costruito tutta la nostra personalità, il nostro io, per farci accettare, per farci accettare dai genitori, dal mondo, dai maestri, dai datori di lavoro, dalla società, e poi scopriamo a un certo punto della nostra vita che dobbiamo smantellare invece tutta questa costruzione, tutta questa della nostra costruzione, personalità, per ritrovare il nostro io profondo, per ritrovare quella scintilla divina che c'è dentro di noi, quella scintilla d'amore, di amore universale. Dottor Berrino, questo è un libro, mi sono sempre piaciuti tutti i suoi libri, ma questo è un libro davvero, insomma, che arriva in un momento forse particolare e anche a una forza ancora più intensa. E se è vero che ogni lungo viaggio inizia con un primo passo, possiamo iniziare a cambiare anche il nostro stile di vita, magari partendo da piccole cose. In chiusura, dottor Berrino, quali sono i piccoli cambiamenti che possono risultare dei buoni investimenti per la nostra salute, il nostro benessere e la salute anche del nostro ambiente? Possiamo cercare di fare qualcosa per aumentare la nostra consapevolezza, renderci conto che noi siamo continuamente distratti. Siamo distratti dalla pubblicità, dalla televisione, dalle immagini che affollano la nostra mente, come se la società in cui viviamo fosse stata costruita per distrarci, per impedirci di pensare. E allora invece concentriamoci sul fatto che siamo vivi, per accorgerci in ogni istante che stiamo vivendo, che esistiamo. E che esiste qualcosa dentro di noi. Chiuderei parlando di una frase bellissima che dice Marco. Dice: la bellezza è importante, la bellezza è come la felicità, è uguale all'aria che si respira, è ovunque, non necessita di particolari condizioni per esistere. Accorgiamoci della bellezza che ci circonda, non lasciamoci distrarre dalle distrazioni, dei divertimenti industriali, accorgiamoci della bellezza delle piccole cose. Dottor Berrino, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci regalato anche questo libro, queste riflessioni, questi spunti. Le abbraccio, dottor Berrino, le auguro una buona domenica e spero di sentirla presto. Grazie. Un abbraccio a tutti. Buona giornata a voi, a Roberta Frisani in regia, la parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Noi torniamo domani alle 6:15 a Obiettivo Salute Risveglio. Buona domenica. Un saluto da Nicoletta.